Sostanzialmente poi parto dalla lettera del presidente di Assolavoro, che lamenta appunto la durezza dell'articolo, in cui appunto con vari dati spiego la diffusione, appunto il boom riconosciuto dall'Istat ma anche dall'Inps del lavoro in somministrazione quest'anno, che diciamo batte il record di lavoratori in affitto di fatto, che sono circa 630.000, e sono sostanzialmente lavoratori poveri, in quanto appunto guadagnano in media 670 euro al mese, che di fatto hanno vari contratti a tempo determinato e vengono utilizzati per qualche ora o qualche giornata da diverse aziende utilizzatrici. Quello che ribatte l'evento di Assolavoro, senza smentire ovviamente questi numeri, è da un lato che la quota di lavoratori a tempo determinato in somministrazione rappresenta soltanto il 15% dei lavoratori a termine, ma che sul totale dell'occupazione stiamo parlando del 2% di questi lavoratori, e quindi dice: ma in realtà siete novecenteschi, no, nell'opporre al fatto che delle aziende private si facciano l'intermediazione di mano d'opera, e che insomma in Italia questo è ancora un trend molto più basso rispetto a quello che c'è in Europa. E che poi sostanzialmente nell'articolo si dice, si apriva dicendo: ma questa è una condizione di lavoro povero per centinaia di milioni, di migliaia di lavoratori, però un grande giro d'affari per poco meno di 100 agenzie che fatturano nel 2016 circa 8,7 miliardi euro, e che appunto la stima si presume salire, visto il boom anche di quest'ultimo anno, fino a 10 miliardi. Lui dice: ma in realtà per l'87% sono proprio i costi per le retribuzioni di questi lavoratori. In realtà, facendo dei calcoli rispetto ai dati INPS, è circa il 60%, ma comunque il punto del dibattere è: questa è tutto fatto secondo le regole, siete voi che siete ovviamente sovversivi da un lato e anacronistici dall'altro, ecco. E noleggiare quindi i lavoratori sarebbe la modernità? Sì, esattamente, quella modernità dove lui tra l'altro dice: se ne volete discutere, no, beffardamente ne discuteremo via fax. Io mi veniva una battuta a dire: cioè, il periodo dei fax era un periodo forse molto meno barbaro, no? Mi utilizzo anche nel rispetto dei diritti dei lavoratori rispetto a quello che ci propongono oggi. Detto questo, appunto, i numeri sono là, li testimoniano tutte le istituzioni che se ne occupano, al Ministero del Lavoro, all'Istat, all'Inps, e non si può dire che sia un bel vedere, una buona condizione, anche perché soprattutto la cosa che lui dice: ma guarda che sono aumentati anche i lavoratori a tempo indeterminato. Beh, io ero andata a guardare, lo stato non l'ho inserito per questione di spa nell'articolo, ma non è proprio lungimirante, perché quello che si vede è che le agenzie di amministrazioni triplicano il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato proprio nel dicembre del 2015, cioè l'ultimo mese in cui potevano usufruire degli sgravi contributivi con gli ITN fino a 8.060 euro. Voglio dire, questo ci fa capire anche i settori dove c'è in qualche modo un boom economico, no? Per la propria attività di fatto si sfrutta quella che è la leva fiscale, questi soldi non vengono redistribuiti, aumento dei salari, delle condizioni di questi lavoratori, perché poi ricordiamo che sono sulla carta dei lavoratori che dovrebbero avere la parità di trattamento in termini salariali, di mansioni e qualifiche dei lavoratori diretti, ma tutto questo non avviene nella realtà, cioè rimane sulla carta. E su questo il presidente di Assolavoro risponde dicendo: beh, se ci sono degli abusi, questi si creano. Oppure, come a dire, se il lavoratore avrà la forza per denunciare qualcuno, che lo faccia, no? Appunto, se i rapporti di forza non so rilevanti, come appunto se i lavoratori possono davvero lì di rischiare con condizioni di disoccupazione una volta, e poi il gatto, lo sappiamo, sta sempre lì in un certo senso. Quindi, vabbè, in qualche modo esprime il potere, no, di chi oggi si può permettere di trattare così i lavoratori, soprattutto denigrare e denigrare anche noi che si tratta di lavoro, e pretendere che il lavoro libero ci sia dignitoso, sia pagato adeguatamente. E non è detto appunto che se la legge è ingiusta bisogna necessariamente poi rispettarla o avallarla come se fosse una calamità naturale. Ecco, ma allora appunto cos'è che rende la critica alla somministrazione di lavoro una questione del futuro e non del passato? Ma da un lato è la privatizzazione, se vogliamo, proprio dell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, appunto, piuttosto che essere svolta dal pubblico, quindi si è sul pubblico che poi non ci guadagna, quindi sulla questa intermediazione non ci fa profitto. Questa è appunto una delle dinamiche che noi abbiamo. Se questi sono i trend oggi utilizzati con le leggi in atto, ci dobbiamo preoccupare noi, no, come società, molto di più dell'impoverimento di una fascia una porzione crescente di questa popolazione, perché poi sappiamo benissimo che i lavoratori e le famiglie povere, tra l'altro appunto in un contesto in cui le diseguaglianze aumentano, cioè dice l'Italia e quant'altro, sono proprio di cui si occuperà la società, e quindi di noi in parte di pubblico lì dove c'è, se non li vuole abbandonare appunto a un privato che diciamo distribuisce e produce in base appunto al centro. È una questione sociale di cui appunto le agenzie di amministrazione se ne lavano le mani, perché poi appunto la gente non riesce a pagare gli affitti e andare a scuola, a curarsi. Dicevo che è una questione sociale, perché poi l'impoverimento di fasce crescenti della popolazione è un problema che investe l'intera società e la gestione, se vogliamo, del welfare, dei servizi pubblici, la gestione proprio della tenuta sociale, una cosa che a un'impresa privata non interessa, si lava le mani nel momento in cui il lavoro finisce, mentre alla società, no, che è molto più complessa, perché quei aspetti più larghi della questione, se vogliamo, è un peso anche nel dibattito sul lavoro, quando poi diciamo che avremo delle pensioni povere o un sistema pensionistico che non riesce ad essere sostenibile, ribadiamolo, con salari scarsi e contribuzioni molto basse, il sistema pensionistico non sarà in grado, no, di adempiere in qualche modo alla sua funzione di reddito indiretto, ma anche se vogliamo in parte del welfare, per i periodi appunto successivi all'età lavorativa.